Radio 24 Reportage. Tutti i randaggi di Sara, di Gigi Donelli. Dopo anni di frequentazione con questo paese, il rumeno di Sara scorre senza incertezze. Mentre mi guida lungo le vie di Cernavoda, raccoglie 5 cuccioli da un gruppo di bambini di famiglie povere che giocano per strada tra case e baracche. Hai fatto pochi metri che già hai raccolto, avete raccolto 5 cuccioli. Tipico. Neanche un 5 cavo. Loro non verranno mai da noi perché è troppa fatica. Il cane non va al guinzaglio, non hanno la macchina. Però se ti vedono, ti dico: senti, voglio castrare il cane. Questo 10 anni fa, questo non si è chiesto quanto mi costa. Quanto mi costa? Ha detto niente. Benissimo. Esatto, ma me lo riportate indietro? Dico, certo. Un progetto come questo, se non lo estendi in un raggio sempre più ampio, è destinato a non avere effetto. È un po' come un cerchio che si allarga e dovrebbe entrare in contatto con altri cerchi. Che purtroppo non ci sono. Che non ci sono, perché in questa regione ci siamo solo noi. Infatti, per risolvere il randagismo endemico in Romania ci vuole un piano di sterilizzazione a livello nazionale gestito dalle autorità dallo Stato. Le associazioni da 10 anni tamponano in alcune aree con l'ostilità delle autorità, che ovviamente ci vedono come un ostacolo, come una rottura di scatole. Perché ovviamente? Ovviamente perché non c'è interesse ad affrontare il problema con una soluzione di medio-lungo termine. C'è il desiderio di affrontarlo in maniera demagogica, poi soprattutto toglie la possibilità di appaltare a ditte amiche un lavoro che è redditizio, soprattutto se è un lavoro di cattura, uccisione, smaltimento, incenerimento. Ecco Sara, di che cifra parliamo? 300 milioni di euro all'anno, sono dei calcoli approssimativi che si basano solo su quanto i comuni pagano l'incenerimento dei cadaveri. Due milioni di cani randagi in un paese che ha conosciuto ripetute emergenze. Povertà, abbandoni, assenza di anagrafe canina alimentano il problema che a febbraio una proposta di legge, poi congelata, pensava di risolvere affidando ai sindaci il destino degli animali, autorizzandone l'eliminazione. Sara Turetta, con l'organizzazione Save the Dogs, lotta da anni contro questa pratica, cerca sostegno perché la sterilizzazione riduca invece progressivamente la popolazione canina. Sara, dunque, il randagismo affligge la Romania, ma non è sicuramente un problema esclusivo di questa nazione. È un problema che riguarda molti stati europei, soprattutto quelli del sud dell'Europa e quelli dell'est dell'Europa. Nonostante le diversità culturali, però la piaga è una piaga che appunto ritroviamo in Grecia, ritroviamo in Sud Italia, in Spagna, la ritroviamo in Bulgaria, come in Romania, come in Serbia e nei paesi dell'ex Jugoslavia. Quindi è un problema che deve diventare una questione europea affrontata anche dal Parlamento europeo. Ecco, a questo proposito, ci sono delle iniziative o ognuno per sé? Ci sono delle iniziative per far sì che il Parlamento europeo inizi ad acquisire una competenza su questa materia. Fino ad oggi il Parlamento si è occupato solo di animali da reddito. I cani e i gatti sono stati lasciati come gestione ai singoli paesi, in quanto considerati legati a fattori culturali. Oggi ci si sta rendendo conto, con il traffico illegale di cuccioli dall'est Europa, con la diffusione di malattie che erano state debellate nei paesi dell'Ovest, ci si sta rendendo conto che una gestione nazionale non è sufficiente. C'è bisogno di un approccio europeo. È stata lanciata da alcuni europarlamentari, tra cui Daciana Sârbu, che è rumena, che è molto sensibile, una dichiarazione scritta che noi ci auguriamo che tanti europarlamentari italiani decidano di sottoscrivere, proprio per avere ad esempio un sistema di identificazione dei cani a livello europeo, il che permetterebbe da un lato di attuare misure efficaci per la gestione del randagismo, ma anche di controllare la movimentazione dei cani, che sta ponendo grossi problemi negli ultimi anni. In un periodo di crisi non è un lusso pensare di organizzare e di, quindi di identificare la popolazione canina europea? Ma diciamo che si parla di un problema di tipo sanitario. Importare malattie come ad esempio la rabbia, che è scomparsa oramai da decenni nei paesi dell'Ovest, non può essere considerato un problema di serie B. La rabbia fa ancora migliaia di morti in India, nei paesi appunto dell'Estremo Oriente o in alcuni paesi africani. Non possiamo permetterci di fare un passo indietro su una questione come questa. Anagrafe canina, abbiamo visto che in Romania è uno dei problemi centrali. Facciamo un piccolo punto sull'Italia, com'è la situazione? Diciamo che la situazione non è ideale, ci sono regioni molto avanzate dove l'anagrafe canina, la percentuale di animali iscritti è molto elevata, e sono le regioni del centro-nord, mentre nel sud purtroppo ci sono dei gravi ritardi. C'è un problema anche di comunicazione tra le varie anagrafe canina, quindi la necessità di avere un sistema di tipo nazionale. Spesso i sistemi regionali non si parlano tra loro, ma mancano soprattutto i controlli da parte delle polizie municipali, che sono quelle che dovrebbero poi verificare che i cani portati a spasso dai padroni effettivamente abbiano un chip. Sono previste sanzioni, ma come al solito i controlli sono troppo pochi. E da lì il legame tra, diciamo, fatti di cronaca, aggressioni che periodicamente registriamo nel Sud Italia con questa situazione molto diversificata? Diciamo che in Sud Italia il problema è soprattutto legato al randagismo, è legato ad una mancanza di un terzo settore che nel centro-nord si è fatto carico del problema e che nel sud purtroppo invece per tanti motivi manca e quindi non ha potuto supplire alle carenze gravissime della pubblica amministrazione. Oggi assistiamo ad un movimento di migliaia e migliaia, non ci sono numeri precisi, ma sono somme importanti, migliaia di cani che dal sud raggiungono il centro-nord attraverso le associazioni italiane che decidono di aiutare situazioni drammatiche del sud Italia. Un'ultima domanda, visto che parliamo di cani, in Europa dov'è il posto ideale per nascere? Perché si fa presto a dire vita da cani, ma abbiamo visto che c'è una bella differenza. Senza ombra di dubbio nei paesi scandinavi direi in assoluto la Svezia è il paese dove il cane ha lo status più alto, è considerato davvero un membro della famiglia e non è un caso che Save the Dogs mandi in Svezia circa 200 cani all'anno, alcuni di questi anziani o con handicap, dalla Romania, dalle nostre strutture, perché in Svezia abbiamo trovato una grande apertura, una grande disponibilità e un grande interesse nei confronti della nostra causa. Ma noi torniamo all'ambulatorio veterinario sostenuto dall'associazione, dove la dottoressa Alina Vasile è al lavoro con i ferri del mestiere. Qui siamo nella sala operatoria e c'è un intervento di sterilizzazione, anzi di castrazione, e questo direi che è evidente. Va bene. Quanti interventi di questo tipo realizza ogni... The less, let's say, maybe 10 per day. 10 al giorno, castrazione, here. Qui. Perché qui dobbiamo anche occuparci del pronto soccorso per i nostri cani, per quelli interni. E poi dobbiamo occuparci anche dei cani che ci vengono portati perché la gente sa di disporre di un pronto soccorso veterinario gratuito. Quindi di pronto soccorso veterinario e di clinica veterinaria. But for example, if we are going by a camper, in one day we can do between 20 and 50. Tra 20 e 50 interventi al giorno quando siete in giro con il camper, la vostra clinica mobile. Una volta operato, cosa ne sarà di lui? He's going back on the street. Torna nella strada, esattamente dove l'abbiamo preso. Quanti giorni? Two days later, tra due giorni riparte. Because he's a male. Come cambierà il suo comportamento sociale? L'aggressività sessuale connessa anche col comportamento, col pericolo per le persone? Sì, sì, certo. Perché, dottoressa, è così importante tenere sotto controllo la situazione dei cani in Romania? This is the Questo è il nostro principale obiettivo, perché così un giorno l'eutanasia dei cani di strada diventerà del tutto inutile. Il problema è che nessuno vuole adottare davvero questa tattica di sterilizzazione. Ci sono interessi economici in gioco. Per alcuni è un affare e nessuno vuole smettere di fare affari. Quindi, se hai tanti cani, hai tanto business. Certo. Se sono sterilizzati e la popolazione decresce, questo business is finishing, yes. Questa è la principale ragione economica. Questa strategia di quanti anni ha bisogno? Let's say between 5 and 8. Noi abbiamo bisogno di un periodo ininterrotto di 5-8 anni, un lasso di tempo che non abbiamo mai avuto. Ci fanno lavorare per un paio d'anni e poi dicono «Ma vedete, il problema dei cani non è stato risolto. Allora dobbiamo togliervi i finanziamenti e ridarli a chi li cattura e li uccide». Ma i cani scappano e la popolazione non si riduce. Insomma, nessuno vince, se non chi sui cani deve fare dei buoni affari. Nobody wins except the business people.